Fat MC, qua, AKA, Hot Crackers, Fat MC, tape. Scrivo un altro classico prop sulla signorina. Signore e signori, qui si coltiva la disciplina. E sì, la prima linea delinea la tua rovina. Con la mazza scrivo testi e picchi in testa la velina. Fat arriva come prima, ma in realtà c'è sempre stato. In prima linea nel mio rap, come contro lo stato. Solo l'emarginato, studio il piano sotto luci artificiali. In prima linea, in primo tasti, caschi in fuori digitali. Un merda e porto le strumentali. Se ho la foto del tuo click sottoscritta maiali. Io scrivo di me nei miei diari troppo vari. E tu che parli senza dire niente, non siamo alla pari. Parità non esiste, stai sul fondo delle liste. Della gente che capisce, spinta sopra le riviste. Io sono nel centro, in prima linea la battaglia. Il mio suono fra non c'entra proprio un cazzo con l'Italia. Dalla prima linea odio esce dalle casse. Negli ultimi banchi siamo i primi della classe. Dalle casse la prima linea ti sfida. Sono sfonda il cordone della polizia. Dalla prima linea odio esce dalle casse. Negli ultimi banchi siamo i primi della classe. Dalle casse la prima linea ti sfida. Sono sfonda il cordone della polizia. Vivo ai margini del foglio, dai margini del mondo. In prima linea con l'inchiostro tengo coperto il volto. Racconto ogni scontro perché questa è la mia vita. Ogni giorno di orgoglio, una nuova ferita. Sono qua e overkill street team, 8-9 bpm nei quartieri per i vicoli. Stimoli vivi di occupando Sandro Pertini. Nel luglio 2001 in strada contro gli assassini. Tra i miei simili con il microfono in mano vomitando parole. D'odio un nuovo immaginario. Nelle seconde file non è posto, non ci riesco. E che capitanavo sempre ogni corteo studentesco. È l'underground, sempre nella mia storia. Schierata dalla parte errata in ogni mia parola. Lotta ed allegria, a volte resta effimera. Sono come il vento, la voce della prima linea. Dalla prima linea odio esce dalle casse. Negli ultimi banchi siamo i primi della classe. Dalle casse la prima linea ti sfida. Sono sfonda il cordone della polizia. Dalla prima linea odio esce dalle casse. Negli ultimi banchi siamo i primi della classe. Volume 1, suoni fatti in ciabatte. Sono sfonda il cordone della polizia. Wow, man, Fat MC, F20 click 2011. La prima linea underground.